Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta. Su Twitter, se vi piace cinguettare, è @luogoc, oppure scrivete se siete magari un po' più grafomani, avete seguito un po' la nostra trasmissione anche nelle edizioni passate e volete scriverci appunto pareri, suggerimenti, critiche, quelle speriamo poche ma sono sempre ben accette, a luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è In TV solo sesso e violenza. L'anno scorso fece molto discutere una ricerca francese secondo la quale rispetto al 2012 guardiamo la TV più di 4 ore al giorno, con addirittura un aumento, sempre rispetto al 2012, di ben 4 minuti. Subito si puntò il dito contro un rincretinimento mediatico a cui faceva da contraltare la supposta invece libertà della rete, dove da spettatore passivo l'utente diventa invece protagonista ed è spesso diciamo autore del messaggio veicolato. Quello che mi chiedo però è, nel paese governato negli ultimi 20 anni da un imprenditore televisivo, che proprio attraverso questo mezzo ha raccolto gran parte del proprio consenso, quanto possiamo affermare che la TV diciamo sia morente e sostituita in toto da cinguettii di Twitter, dalle notifiche di Facebook, dallo streaming a cui tutti noi, grazie alla banda larga, siamo un po' abituati? La TV generalista, appunto solo sesso e violenza, è destinata a fare da badante per il pubblico della terza età, magari non che non guarda sesso e violenza, ma magari guarderà invece le fiction, ecco, insomma, che parlano del prete, del bravo carabiniere, della brava casalinga, eccetera, eccetera, che diciamo rimane quasi unico spettatore fedele negli anni a questo punto. Insomma, magari le cose stanno un pochino diverse rispetto a questo luogo comune e ne parliamo con un esperto, ovvero Paolo Papo, che è tra gli autori del famosissimo programma Blob, che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 25 anni di attività. Buonasera. Papo, senta, innanzitutto una domanda di rito, proprio quasi una premessa prima di addentrarci nel vivo della questione. Ma Blob, che tutti quanti i nostri radioascoltatori insomma conosceranno e sapranno di che cosa stiamo parlando, ovvero questo bellissimo collage sempre in chiave satirica della realtà circostante, filtrata attraverso però il mezzo televisivo, ma vedo che ultimamente poi avete aggiunto anche pezzi insomma presi dalla rete, poi ne parleremo insomma. Ma che idea c'è dietro? Com'è nato appunto Blob? Ma Blob inizialmente è nato come se dovesse essere una sorta di rassegna stampa di quello che era accaduto il giorno prima, tant'è vero che il logo originario recitava proprio Blob ieri, perché si tendeva a prendere le immagini della televisione del giorno prima e rimontarle con l'aggiunta di pezzi di film, pezzi di repertorio, ma l'idea fondamentale era quella di poter fornire al telespettatore una sorta di rassegna di tutto quello che era accaduto nella televisione del giorno prima e che lui non aveva visto, magari addirittura non aveva voluto vedere, e noi lo costringevamo a vederlo ugualmente. Ma il successo di Blob si affermò sin da subito, è stato un successo che insomma è montato nel tempo fino a diventare culto, oppure insomma è una cosa che ha avuto un riscontro immediato? Per la verità ha avuto un riscontro immediato perché ha un po' lacerato, diciamo, il velo che c'era intorno a una televisione che doveva essere all'epoca abbastanza paludata e è diventato un fenomeno molto rapidamente, anche perché le nostre stesse vittime, e cioè i conduttori televisivi, i giornalisti che avevano problemi durante le dirette, eccetera, cominciarono a dire: ah, questo vedrete che finirà su Blob, ah, vedrete che saremo blobbati. E quindi loro stessi, questo che noi scherzosamente chiamiamo le nostre vittime, hanno fatto da cassa di risonanza per la notorietà del programma. Senta Papa, ma il blog Vincos che studia le dinamiche del web si è andato a vedere gli hot topic, insomma gli argomenti più caldi, più cercati, no? Tra Google e Twitter, ha voluto prendere questi due mezzi di riferimento, Google, il famoso motore di ricerca, Twitter invece, come dicevo anche nella presentazione, pure noi abbiamo come luogo comune, abbiamo un account Twitter, il famoso social network, ed ha visto come dominano rispettivamente come appunto chiavi di ricerca maggiore, come cose di cui si parla maggiormente appunto, rispettivamente per Google e Twitter, lo sport e la televisione. Ovvero su Google l'argomento più ricorrente in assoluto è lo sport nel 47% dei casi e nel 29% invece informazioni di percento si cercano cronaca e attualità. Mentre su Twitter, che uno magari dice ma questo è un social network giovane, moderno, la gente appunto parlerà lì di politica, di società, di attualità, di cultura, così, invece è venuto fuori che nel 68% dei casi si parla di trasmissioni televisive. Ecco, ma secondo lei la televisione, che tutti ormai da anni danno come il medium morente, vecchio, che sta lì per cadere sotto i colpi di internet e del web, però poi se andiamo a vedere internet e web si parla di che cosa? Di televisione. Lei come si spiega questo rapporto? Ma si spiega con il fatto che sono le stesse trasmissioni televisive che cercano di una amplificazione della loro audience attraverso Facebook e Twitter, persino Blob da un po' di anni a questa parte, prima indicava semplicemente un sito che Blob ha avuto, adesso come in quasi tutti gli altri programmi sul rullo di coda c'è scritto anche seguici su Facebook e Twitter. Quindi diciamo che è un modo della televisione per ammiccare al web e tramite il web anche raggiungere spettatori che magari non stanno davanti a piccolo schermo. Noi mettiamo in rete tutte le puntate del programma, mettiamo in rete anche vecchie puntate del programma, puntate storiche, e verifichiamo che c'è proprio un pubblico che si affeziona e va a rivedere la puntata del programma sul web. Ma lei personalmente è un amante dei social network? Li usa, li utilizza? Modestamente direi di no, nel senso che li uso per ragioni di lavoro. Però non direi di essere un appassionato del web. Noi come Blob da un po' di anni a questa parte però abbiamo tenuto presente anche le modificazioni che ci sono state nel costume, per cui molto spesso, oltre ad utilizzare le immagini della televisione generalista, andiamo a pescare immagini proprio su YouTube o sugli altri motori di ricerca che offrono immagini da tutto il mondo, anche perché noi cerchiamo anche laddove è possibile di proporre immagini senza il commento. quelle che in gergo si chiamano eveline, cioè l'immagine di quello che sta accadendo o è accaduto senza la mediazione del giornalista o del commento o dello speaker. Quindi siamo a nostra volta degli utilizzatori del web, proprio a integrare quello che passa alla televisione generalista. Papo, secondo lei è un caso che il personaggio, diciamo, più importante dal punto di vista politico e anche che ha maggiormente influenzato la nostra società, tanto di essere stato veramente, soprattutto poi negli ultimi 10-15, insomma, argomento di discussione nei bar, tra gli amici, quando si parlava in generale, nel privato, nel pubblico, quando si andava all'estero. Secondo lei è un caso che sia stato un imprenditore televisivo? No, non è assolutamente un caso e non è nemmeno l'unico caso al mondo. Adesso non so se sia stato Berlusconi a fare così da testimonial, come una sorta di primogenitura di un imprenditore televisivo che si candida, ma è successo in varie altre parti del mondo che chi poteva avere un certo tipo di visibilità poi l'ha utilizzata anche sul piano politico. È di ieri l'elezione in Ucraina di un famoso e molto ricco industriale del cioccolato che in una nazione travagliata da una guerra civile è riuscito, grazie ai suoi così alla sua conoscenza nella gente, a farsi eleggere presidente dell'Ucraina. Però ok, lei giustamente mi dà come esempio Ucraina, mi sarebbe piaciuto un bel esempio, non so, di qualche grande democrazia anche occidentale, dove la persona più ricca del paese diventava anche la più potente. Sarebbe stato, insomma. Nelle grandi democrazie occidentali però vigono delle regole che non a caso in Italia non sono mai state applicate e che riguardano il conflitto di interessi, per cui, per fare un esempio, Bloomberg è diventato sindaco di New York grazie alla notorietà dei suoi canali televisivi specializzati in particolare in questioni economiche, ma nel momento in cui è stato eletto e per tutto il periodo in cui è stato sindaco di New York ha completamente messo da parte i suoi interessi televisivi ed economici. Quindi diciamo che qualche caso anche lì c'è stato, però a differenza dell'Italia gli imprenditori all'estero, se vogliono impegnarsi in politica, sono obbligati ad evitare il famoso conflitto di interessi. Papo, per preparare questa puntata, anzi per meglio per scegliere il luogo comune da trattare questa settimana, mi era venuto in mente, ovviamente l'argomento era la televisione, mi era venuto in mente o in TV solo sesso e violenza o anche un altro luogo comune, e questo l'ho ricordato nella premessa, che appunto la televisione è un luogo comune molto più recente, devo dire, insomma, che però già si è affermata una larga fascia della popolazione che la TV, non i giovani non guardano la TV, la TV è vista principalmente solamente da un pubblico adulto, molto adulto. Io penso innanzitutto che bisogna specificare, quando si dice questo, la TV generalista, dalla quale però c'è da dire Blob ha attinto in questi 25 anni a piene mani, anche se in questi ultimi anni, lei giustamente ricordava, insomma, ci sono anche altri mezzi. Io invece vorrei proprio un suo parere, che però mi accorgo di sto andando a toccare un conflitto di interessi, però le chiedo un parere molto sereno su questo. Ma questa TV generalista, insomma, quindi si rivolge ormai solamente alla casalinga, al pensionato, o magari il digitale terrestre, le pay TV, l'integrazione con internet darà nuova vita? Insomma, questi mezzi che le ho detto sono gli assassini della TV generalista o daranno nuova linfa alla TV? No, sicuramente la TV generalista ha avuto negli ultimi anni, come lei diceva, per via dei canali satellitari e per via poi del digitale terrestre, un calo di ascolto, e cosa che non credo che potrà essere in qualche modo reversibile. È un modificarsi delle abitudini, degli interessi delle persone, cui inevitabilmente non avrà, diciamo, un ritorno indietro. Basta vedere i dati di ascolto che ci sono giornalmente. Se un programma di punta di una rete importante riesce a fare 5 milioni di ascolto, si grida una vittoria stratosferica. Qualche anno fa sarebbe stato un dato largamente insufficiente, laddove importanti e famose trasmissioni riuscivano a catalizzare l'attenzione di 8-10 milioni di spettatori. Ormai questo non avviene se non in casi rarissimi, come può essere un Festival di Sanremo o un concerto di Vasco Rossi, per intenderci. Quindi un grande trasmesso, evento, trasmesso in televisione. E quindi penso che questo declino della TV generalista, peraltro preconizzato già da grandi esperti da anni, sarà inevitabile. E ciascun telespettatore continuerà a scegliere cosa fare, cosa non fare, cosa vedere, cosa non vedere, all'interno della gamma sia del digitale terrestre che dei canali satellitari. Papo, ma in questi 25 anni quanto Blob è stato lo specchio della nostra società? Ma penso abbastanza, nel senso che noi siamo a volte accusati di essere stati troppo addosso appunto all'ex premier, però ci si dimentica che 25 anni sono tanti, e quando Blob è nato nell'89 era un'Italia completamente diversa. C'erano i vecchi tra virgolette partiti, era prima i Tangentopoli, era prima che molti politici uscissero di scena per una ragione o per l'altra, gli stessi partiti venissero ridimensionati, quindi diciamo che noi abbiamo cercato in tutti questi anni di essere sempre una voce fuori dal coro, quindi chiunque fosse il personaggio preminente in un certo periodo, noi non facevamo sconti a nessuno e non abbiamo mai fatto sconti a nessuno e cerchiamo di non farli neanche adesso. Senta, ma io quando lei dice noi, no? Uno gli viene in mente Blob. Allora adesso chi la sta sentendo una voce. Poi questa sera accende alle 20:10, mi corregga se sbaglio. Alle 20 su sì. Rai 3 accende Blob e vede delle immagini, ma insomma, quindi voce e immagini, ma ci aiuti un attimo a ricostruire invece una sostanza, ci dia delle immagini, insomma, un pochino più corpose, ci faccia entrare un pochino nella redazione di questo Blob. Ma chi siete, che idee avete, che tipo di clima c'è nelle riunioni che fate, o come nascono le puntate, le idee, eccetera eccetera, insomma. Ma sicuramente Blob è nato e continua ad essere il risultato di un lavoro di un collettivo di persone, perché ci si alterna al montaggio, anche perché sarebbe impossibile per una singola persona montare il programma tutti i giorni. Montare un programma di Blob vuol dire il giorno prima comunque aver passato anche 12 ore della propria giornata e della propria serata davanti al televisore. Mamma mia, detto così lo sai che sembra un incubo. Più o meno in qualche modo lo è, e comunque fa sballare le statistiche che lei citava all'inizio sulle 4 ore di televisione che uno vede. Certo. Noi arriviamo nel giorno prima del montaggio a vederne anche 12 ore di televisione. E naturalmente da tutta questa massa di immagini, suoni che vediamo, dobbiamo il giorno dopo realizzare la puntata del programma. Quindi è sicuramente un lavoro collettivo che coinvolge varie persone quotidianamente. Tenendo presente che noi andiamo in onda 7 giorni su 7, quindi non dobbiamo prevedere anche le puntate che poi andranno in onda il sabato e la domenica, dedicate il più delle volte a situazioni monografiche di personaggi o di eventi che si sono realizzati nell'ultimo periodo. Papo, senta, ma fare dell'ironia, per fare una delle basi dell'ironia, a mio giudizio, è una delle premesse, mi scusi, dell'ironia, è quello di avere anche sempre un pochino di distacco, perché quando si è troppo addentro nel giudizio si rischia magari di mancare il bersaglio satirico, oppure di essere talmente cattivo o essere talmente indignato in un certo senso da non, diciamo, riuscire poi nell'intento comico, nell'intento comunque nel non provocare il riso o il sorriso, ma insomma di in qualche modo andare fuori dal seminato di quelle che sono il campo di quello che è il campo della satira. In tutti questi anni di televisione, moltiplicato per 8 ore al giorno, insomma, le è mai capitato a lei o anche qualche collega che mentre guardavate certe cose o insomma, non so, certi programmi idioti in un certo senso, mi passi l'espressione, oppure certi personaggi che magari lei personalmente considera abietti o sui quali ha un giudizio proprio negativo, insomma, non riuscisse ad avere appunto quel distacco ironico di cui parlavo, ma non so, voleva tra virgolette un pochino calcare la mano, le è mai capitato? Ma certo, nel momento in cui si monta il programma ciascuno di noi ci mette del suo, nel senso che può... C'è qualcuno di voi più cattivo? Ma più cattivo direi di no, diciamo che si cerca di lavorare comunque sempre su una costruzione che sia facilmente percepita poi dallo spettatore. Perché se si cerca di fare una cosa, dei passaggi tra un'immagine e l'altra o dei richiami troppo complessi, nella rapidità poi della percezione che si ha dalla televisione, il telespettatore rimane, cioè non gli si dà neanche il tempo di percepire i vari passaggi. Quindi cerchiamo sì di essere giustamente critici nei confronti di quello che avviene nella società e di quello che passa in televisione, ma direi che non c'è mai della cattiveria fino a se stessa. La televisione nel 2014 può essere definita, diciamo, ancora oggi, ancora attuale, la definizione di cattiva maestra? E per lei ci sono delle eccezioni in caso? Ma sicuramente tutta questa valanga di immagini che ci arrivano, soprattutto avendo la televisione, essendosi ormai la televisione arresa all'utilizzo di film, telefilm e quant'altro che vengono prodotti soprattutto in America e essendo molto semplice per la programmazione televisiva riempire i palinsesti di telefilm polizieschi con sparatorie, con situazioni di violenza. E negli ultimi anni, una cosa che forse non tutti hanno fatto caso, tutti questi telefilm che implicano la presenza di vampiri, extraterrestri o altri personaggi, compresi nei cartoni animati, per carità, perché anche gli stessi cartoni animati sono a volte estremamente violenti, sicuramente ci influenza tutti e crea anche un'immagine di cattiva maestra, questo è sicuro. Questo è un dibattito veramente, veramente storico, insomma, il fatto che quanto, in che percentuale, in che misura diciamo, la società magari può essere percepita più o meno violenta insomma, da quando c'è la televisione. Lei giustamente ha detto, ricordava i bambini. Io le chiedo, da diversi anni anche i cartoni animati, che insomma sono un prodotto rivolto generalmente a una fascia d'età giovane, no? Cioè ai bambini, insomma, presentano situazioni ed utilizzano un linguaggio però più pensato invece per adulti, in maniera tale da assicurarsi anche una più ampia fascia di pubblico possibile. In altri programmi invece, quindi non i cartoni animati, proprio programmi veri, insomma, con persone vere, quando i bambini sono protagonisti, spesso vengono fatti interagire, diciamo, con adulti o vengono messi in situazione da adulti. Io, Papo, mi ricordo un po' di anni fa, ma non mi ricordo proprio se l'ho visto su Blob, no? Di un figlio, anzi no, sicuro l'ho visto su Blob, perché non l'avrei potuto vedere in un'altra maniera, che in uno di quei programmi del pomeriggio, mi pare, c'era un figlio che doveva scegliere, insomma, adesso la sintetizzo, doveva, non so, scegliere il nuovo compagno della madre, una cosa del genere, insomma. E c'era poi il giudizio del pubblico che doveva vedere se questo bambino aveva scelto bene o male. È una cosa veramente ma allucinante. Secondo lei, quello che le chiedo è come vengono generalmente utilizzati i bambini, sia come pubblico passivo che come protagonisti in TV? Lei che giudizio personale ha, insomma, su questo argomento? Ma ci sono state recentemente anche delle polemiche sull'uso dei bambini canterini in programmi sia Rai che Mediaset. In realtà la cosa è vecchissima. Proprio quando nasceva Blob, c'era un famoso programma condotto da Sandra Milo che si chiamava Piccoli Fan, in cui c'erano dei bambini dai 5-10 anni che venivano dai genitori travestiti da tipo i cantanti in voga all'epoca. Mi ricordo per esempio un bambino che cantava come Little Tony, una bambina che cantava come Ripta Pavone. Quindi in realtà l'utilizzo dei bambini in televisione più o meno c'è sempre stato. Certo, quando i bambini vengono coinvolti in situazioni di adulti, la cosa è decisamente negativa, insomma. Personalmente preferirei evitare queste situazioni, però c'è l'effetto tenerezza, c'è l'effetto coinvolgimento che quando c'è di mezzo un bambino, naturalmente il pubblico si affeziona e quindi segue maggiormente quel programma. Sicuramente. Guardi, le faccio il parallelismo con i social, anche su Facebook. Guardi, se lei vuole che la sua foto venga condivisa, non so se sa di che cosa sto parlando, se vuole, insomma, che la sua foto, la foto che mette nella sua bacheca, venga condivisa, il soggetto deve essere o un bambino o un gatto. Se lei mette un bambino o un gatto, sicuro la sua foto non avrà un sicuro successo. Agli sgoccioli di questa trasmissione, dottor Papo, io non posso non approfittare della sua presenza per dire, ma in questa benedetta televisione, se e quando decido di accenderla io e chi ci sta ascoltando adesso, ma ci può consigliare due o tre cosette da vedere che andiamo un pochino sul sicuro, insomma? Ma sicuramente l'avvento del digitale è stata una svolta importante, perché ad esempio adesso per i bambini ci sono dei canali totalmente dedicati a loro, cioè la Rai ne ha due per fasce di diverse, che sono Rai Yo-Yo e Rai Gulp. Sì, sì. E per noi adulti invece? Per gli adulti, non lo qualche so. programma, qualche nome di programma, qualcosa da, che merita che accendiamo la televisione questa sera? Ma sicuramente per quello che mi riguarda i programmi di approfondimento anche politico e sociale sicuramente valgono sempre la pena di essere visti. E se poi uno si può distrarre, può anche vedersi tranquillamente un bel telefilm poliziesco, non c'è niente di male. Quindi, ok, insomma, seguiremo sicuramente, diciamo, questi consigli. Dottor Papo, siamo arrivati alla fine della trasmissione, io la ringrazio veramente per essere stato nostro ospite. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Salve, buona giornata, e salutando appunto Paolo Papo, uno tra gli autori di Blob, ricordiamolo per essere stato, e ringraziandolo per essere stato nostro ospite, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito radiocittàaperta.it. Trovate Non esistono più le mezze stazioni, che è la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Poi, visto che già state sul computer, sai che fate? Vi aprite una nuova scheda e su Facebook mi cercate come Luogo Comune, il fotoprofilo è gli 88.9 di Radio Città Aperta, quindi mi riconoscete subito. Vi piace cinguettare, lo dico sempre, @luogoc, vi piace scrivere una bella mail, luogocomune.radio@gmail.com, insomma tutti i mezzi per entrare in contatto ce li avete. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 13.30, sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca un buon venerdì e soprattutto un buon weekend. Ciao!